Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. È dal 1989 che ella, perché non è una cosa, è una signora misteriosa, ella appare e scompare. E questa volta è apparsa a Bologna. Benvenuti a Mebius, sentiamo i titoli e poi iniziamo. C'è o non c'è la fusione fredda? Questa volta arriva da Bologna ed è coinvolto un gruppo di fisici italiani. Cerchiamo di capire se questa volta funziona. Vinitaly 2011, l'appuntamento più importante per gli enologi. Al Salone del Vino anche tanta scienza e tecnologia. Blue Economy, la prospettiva di una nuova economia ispirata alla natura in grado di offrire 100 milioni di posti di lavoro. Abbiamo intervistato Gunter Pauli, autore del progetto. Ciao Maurizio. Ciao Federico. Maurizio Meris è qua con me in studio questa sera con Mr. Kilover. Stai seguendo in questi giorni la fusione fredda, nei titoli l'avranno sentito tutti, la signora di cui parliamo è questa benedetta fusione fredda che apparve nel marzo del 1989. In realtà già dagli anni 50 c'era qualcuno che qualcosa buttava in aria, che si poteva ottenere quel grande energia facendo delle cose in piccolo molto lentamente, però insomma è dell'89 che viene fuori questo, l'annuncio, quello che tutti ricordiamo, insomma, quello della fusione fredda, Fleischmann e Pons. Adesso vedremo qualcosa in questi minuti che seguiranno, che saranno abbastanza, un po' più del solito di quanto dedichiamo a un argomento. Cercheremo di sbrogliare alcuni aspetti di fondo del rapporto fra le teorie, la ricerca e questa fusione fredda. Sì, la cosa iniziò, come dicevamo poco fa, nel marzo dell'89, e non so se sei d'accordo, tutto il problema che c'è intorno a questa tecnologia, che è un problema non solo di tipo tecnico ma è anche qualcosa, insomma, fatto di sensazioni strane, dubbi, polemiche, è perché è iniziata, certo, male. Perché è iniziata malissimo nell'89, insomma, esatto, con una clamorosa bufala, con un clamoroso imbroglio. Oddio, no, sì. Sì, no, certo, sì. Diciamo che è stata, sì, gonfiata una situazione che probabilmente aveva qualcosa di sotto. Forse qualcosa c'era, ma dentro, però come è stata gestita è stato un disastro. Fleischmann e Pons, Martin Fleischmann e Stanley Pons. Fleischmann era un grandissimo chimico di quegli anni. Un elettrochimico di fama mondiale. Di fama assolutamente mondiale. Alla Università dello Utah, nei primi mesi, già dall'88, ma insomma stavano lavorando a questa, certo, idea assolutamente rivoluzionaria, se fosse stata confermata. Preparano il loro materiale perché questo sia pubblicato, e chi deve essere, chi fa parte del comitato di controllo della rivista a cui lo mandano? Un certo Steve Jones, che sta lavorando anche lui a qualcosa di simile. Allora naturalmente lì gli animi si scaldano, perché certo, se quello che ti deve valutare sta lavorando su qualcosa di simile, c'è il fondato sospetto che dica: beh, la tua cosa la teniamo fuori e invece porta avanti la mia. Prende il fascicolo, esatto, Fleischmann e Pons, lo mette sotto, esatto, e mette sopra il proprio. Esatto. Allora si accorgono di questa cosa, si telefonano, si mettono d'accordo e dicono: il 24 marzo ci troviamo in un aeroporto, non viene definito l'aeroporto, insieme prendiamo i nostri due scritti, li diamo a FedEx e lo facciamo spedire alla rivista Nature, così è tutto controllato, tutto d'accordo, e poi decideranno loro, quelli della grande rivista Nature, attendibilissima. Cosa succede? Succede che Fleischmann e Pons non si presentano all'aeroporto, ma esattamente 10 giorni prima, spinti a quanto pare dall'Università dello Utah, che era l'università nella quale loro lavoravano, affrettano i tempi e fanno una cosa che nella scienza non si fa mai, nella ricerca: fanno una conferenza stampa in cui annunciano, e praticamente è il Wall Street Journal che pubblica per la prima volta questa cosa, annunciano l'avvento della fusione fredda. Quell'altro protesta tremendamente, manda poi il suo articolo a Nature, e a quel punto parte malissimo la cosa, perché certo è abborracciata, si capisce che è stata fatta di fretta, tutti tentano di rifarla, nessuno ottiene niente, e lì c'è il primo grande ballon d'essai, perché scoppia una polemica tremenda e loro cadono in disgrazia. Cadono in disgrazia anche perché, se non sbaglio, avevano sostenuto di aver trovato alcuni elementi cosiddetti di fusione che tornano in qualche modo, tra l'altro in questa vicenda, come vedremo dopo, che invece non c'erano. Loro sostenevano, ricordiamolo, perché poi la fusione fredda, tra virgolette, di cui parliamo oggi è una cosa diversa, che loro lavoravano con il palladio e il deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno, un tipo di idrogeno. E loro sostenevano che all'interno della loro macchina, del loro reattore, si fondessero atomi di deuterio e quindi bisognava trovare dell'elio. Loro, se non sbaglio, dissero: noi abbiamo trovato l'elio. E non lo vedeva nessuno, invece. Ecco, invece, che cosa succede oggi, in questi giorni, in queste ultime settimane? Allora, proviamo, intanto facciamo una premessa. Qui non siamo in grado, non è il posto in cui dirimere né una controversia scientifica, né cercare, né il posto per dirimere invece una questione di tipo brevettuale, che poi proveremo in qualche modo però a raccontare. Allora, di che cosa stiamo parlando? Parliamo di un oggetto, si chiama Energy Catalyzer, che produce calore. Si presenta come un tubo lungo mezzo metro, largo 5 centimetri, piuttosto piccolo, quindi anche piuttosto leggero. Questo oggetto, come dicevo, produce calore e più precisamente scalda dell'acqua. All'interno di questo tubo sappiamo che c'è del nickel e che viene anche immesso una piccolissima quantità di idrogeno, più o meno un grammo, una roba del genere. Quindi non siamo più nel caso del palladio del deuterio, ma siamo in un caso in cui si utilizzano nickel e idrogeno. L'altra cosa che dobbiamo sapere è che questo reattore consuma energia elettrica per funzionare, ma questa energia, e qui è il dato fondamentale, è circa un quindicesimo di quella che produce sotto forma di calore. E allora la domanda è: da dove arriva evidentemente questo calore? Secondo gli inventori, che ricordiamo sono l'ingegnere Andrea Rossi, che ha basato il proprio lavoro sugli studi di Sergio Focardi, professore emerito dell'Università di Bologna, questo calore proverrebbe da una reazione nucleare, non chiamiamola fusione, poi spieghiamo anche perché, tra idrogeno e nickel, il quale si trasforma in rame, e poi insomma ci sono altre reazioni nucleari, non possiamo qui entrare nei dettagli. Perché si parla di fusione o di reazioni di tipo nucleare? Proprio per la quantità di energia che viene sprigionata, perché c'è un limite alla quantità di energia chimica che si può racchiudere in un oggetto di quelle dimensioni lì. Superata questa soglia, resta solo l'energia nucleare. Però attenzione, al momento non c'è nessuna teoria in ambito fisico che è in grado di spiegare come una reazione nucleare possa avvenire nelle condizioni che esistono all'interno di questa macchina. Qualche centinaio di gradi, qualche atmosfera di pressione. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Riprendiamo, Maurizio, da dove eravamo rimasti, e cioè: un certo risultato, se deve essere di tipo chimico, non può avere tutta quell'energia, e quindi qui c'è qualcosa che non è chimico. D'altra parte c'è anche un altro problema, il problema di fondo della cosiddetta fusione fredda, cioè perché la fusione fredda non dovrebbe esistere? Perché due nuclei atomici, per fondersi, devono praticamente toccarsi. Solo a quel punto le forze cosiddette nucleari forti, cioè quelle che tengono incollate le particelle dentro al nucleo, riescono ad entrare in azione. Però, siccome i due nuclei sono anche due cariche positive, è molto difficile farli avvicinare perché si respingono. E questo, quando accade, per esempio nelle stelle, quando questi nuclei sono molto veloci, cioè temperature elevate, e sono molto affollati, cioè pressioni elevate. Due condizioni che non ci sono nella fusione fredda. Ecco perché è scorretto, e da un po' di tempo i fisici usano un altro termine, parlano di low energy nuclear reaction, cioè reazioni nucleari a bassa energia, che però non vuol dire, non indica niente di preciso, un po' come l'energia oscura. Questa volta però siamo in presenza di tanti esperimenti di controllo, infatti sentiremo fra pochissimo un nostro ospite che ha fatto uno di questi. Sì, sono quattro le situazioni in cui questa macchina è stata testata da dei ricercatori non coinvolti nel progetto, in due casi anche davanti a un pubblico, per così dire, di ricercatori, addirittura due fisici svedesi, uno dei quali membro della Skeptic Society, quindi è uno di quei signori che si occupa di combattere le frodi scientifiche. In tutte e quattro le circostanze questa macchina ha funzionato nello stesso modo, ha prodotto grandi quantitativi di energia superiori a quelli che si possono attribuire a delle reazioni di tipo chimico. Quindi parliamo di quattro esperimenti controllati nei quali si è stata una produzione netta e intensa anche di energia. E questa è un'assoluta novità. E abbiamo qui con noi questa sera uno dei ricercatori che ha fatto appunto uno di questi test, Giuseppe Levi, ricercatore dell'Università di Bologna. Levi, io vorrei chiederle questo. Allora, qui abbiamo questo tubo dentro il quale succede qualcosa che insomma sembra abbastanza interessante. Però, per spiegare bene ai nostri ascoltatori come stanno le cose nella ricerca scientifica e nel rapporto fra la teoria e la pratica, cioè la teoria che descrive dei fenomeni e un fenomeno che appare in natura, io le chiedo questo. C'è dietro tutta una procedura di brevettazione, quindi è ovvio, è chiaro, c'è una segretezza. Però se lei aprisse quel tubo, non è vero, mi dica se sbagliamo, non è vero che allora voi tutti direste «Ah, beh, finalmente abbiamo capito perfettamente come stanno le cose». Perché? Perché potrebbe benissimo esserci qualcosa che vi dà più elementi, ma la teoria non c'è, il fenomeno potrebbe restare altrettanto misterioso quanto adesso. Ma vede, in scienza le cose proprio interessanti da andare a studiare sono quelle ignote, quelle che non sono ovvie, e questa è una di quelle. Adesso la prima cosa da fare sarà acquisire dati sperimentali, però le devo dire sinceramente, da buon sperimentale, io spero di essere buono, ma insomma da sperimentale, in questo momento, per non essere influenzato, non sto guardando le teorie. Certo. La mia preoccupazione principale in questo momento è di stendere un buon programma sperimentale e di acquisire dati sperimentali in modo corretto. Dopodiché questi dati sperimentali saranno la cornice dentro cui le teorie potranno svilupparsi. Senta Levi, lei e i suoi colleghi vi siete chiesti se sareste stati in grado di replicare un oggetto come quello che avevate davanti? Sì, allora all'inizio abbiamo addirittura pensato, se dovessimo organizzare, faccio per dire, un imbroglio. Una bella truffa. Una bella truffa, come si possa, come fare? E la risposta è stata che non saremmo stati capaci di farlo. Ovviamente idee ce ne sono, ma le dirò, in questo momento anche per proteggere Rossi, per il rispetto che ho verso Rossi, io per ora non intendo replicarlo, intendo lavorare con lui e continuare a studiare questo oggetto. Senta, per curiosità, le posso chiedere una delle ipotesi che avete fatto, magari? Mezza. Ma insomma, allora abbiamo uno può cominciare a ipotizzare batterie, può cominciare a ipotizzare reazioni chimiche, no? Se uno volesse organizzare tra virgolette un imbroglio. Una di queste reazioni era la produzione di idruro di nickel. Beh, lei ha visto dal report di svedesi che l'energia che sarebbe stata prodotta era risibile in confronto a quella che effettivamente è stata osservata. Quindi di ipotesi ne abbiamo fatte diverse, ne abbiamo esplorate diverse, escludendole però alla fine tutte per la macroscopicità del fenomeno. Qua non ci troviamo di fronte a pochi watt con un oggetto di un grande volume e un grande peso. È lì la differenza. Ci troviamo di fronte a dei kilowatt. Grazie Levi. Prego. E adesso raggiungiamo negli Stati Uniti Andrea Rossi, che è l'inventore del tutto. Buonasera Rossi. Buonasera a voi. Sono qua con Maurizio Melis, abbiamo già detto tante cose su questo esperimento, sul suo marchingegno, adesso abbiamo delle cose da chiedere esattamente a lei. Levi poco fa ci diceva questo su una nostra domanda, e cioè se noi apriamo lo scatolotto, che ovviamente non si può fare adesso perché è protetto da una brevettazione in corso, non è che ci appare la teoria. Ci appare qualcosa, e adesso magari forse lei ci potrà dire qualcosa di più, ma comunque non avremmo immediatamente chiaro come avviene il processo in corso. La spiegazione del fenomeno, non è che basta aprire probabilmente questo tubo per avercela. E vediamo il tutto. Questo però vale anche per lei, no, Rossi? Non è che lei ha una teoria. No, questo non è esattamente così. Allora io sono partito dall'idea che si potesse arrivare a un risultato valido sulla base di una teoria che prima degli esperimenti era giusto una teoria. Il punto di partenza, il punto di applicazione della ricerca è stato ovviamente il lavoro che era stato presentato nell'89 da Fleischmann e Pons. Io avevo provato a ripetere quell'esperimento, non c'ero riuscito. Lì è scattata, diciamo che è scattata la pulsione di andare avanti per cercare di trovare il sistema di ottenere delle reazioni nucleari a temperature basse. Il punto a cui siamo arrivati adesso è che personalmente ho delle idee abbastanza chiare su quella che è la teoria che sta alla base delle reazioni che stiamo ottenendo. Questa teoria verrà presentata assieme all'impianto da 1 megawatt, questo avverrà in Grecia, mm-hmm. e con l'occasione della presentazione dell'impianto pubblicheremo anche la teoria che sta alla base di... Beh, questa cosa che lei ci dice, Rossi, è abbastanza importante, perché invece prima con Levi si ragionava sul fatto che molte altre volte nella scienza, anche grandissime scoperte, sono partite da fenomeni che si vedevano dare grandi risultati, ma la teoria non c'era, quindi non sarebbe sorprendente che l'assenza di una teoria, mentre invece lei ce l'ha. E allora perché appunto non farla vedere subito? È molto connessa la teoria con la realizzazione industriale? È chiaro che noi adesso, da una parte, nel brevetto, come lei sa, in base alla legge sui brevetti, bisogna dare sufficienti informazioni perché un esperto del settore sia in grado di riprodurre l'effetto. E questo noi l'abbiamo fatto, però è ovvio che c'è un gap tra quella che può essere la riproduzione dell'effetto con quella che è una macchina che funziona su scala industriale. E lì subentrano informazioni che parzialmente sono anche contenute nella teoria. Mi sembra di poter concludere allora, Rossi, che voi avete una teoria abbastanza avanzata, che però probabilmente ha bisogno di essere aggiustata ancora, però è una teoria che spiega sufficientemente bene quello che c'è dentro il cilindro. Una cosa così. Sì, la sua sintesi è corretta. Allora, grazie Rossi, e naturalmente noi... Grazie a lei. La seguiamo da vicino, per capire come vanno le cose. Grazie, arrivederci. Finite. È chiaro che ci si vedrà in ottobre all'inaugurazione dell'impianto. Non mancheremo. Va bene. Grazie, arrivederci. Basta così per oggi, Maurizio, con la fusione fredda, con la signora fusione. La seguiremo, ne parleremo senz'altro nelle prossime settimane. Adesso torniamo alla normalità. Oddio, mica tanto, perché la domanda la sentirete, ma comunque torniamo alla normalità con il nostro quiz. Sto per farvi le domande, state allerta. E dovete stare anche bene attenti all'ultimo servizio di questa puntata di Mebius, perché lì c'è la soluzione al quiz. La domanda è la seguente: dalle larve che depositano le mosche si può ottenere qualcosa di molto utile? Non era fusione fredda. Lo so, fa un po' impressione, ma è così. Di che cosa si tratta? 1. Un potente cicatrizzante per le ferite. Scriverete ferite. Oppure un detersivo totalmente biologico, e ci scriverete detersivo. Terza e ultima possibilità, una colla, anch'essa totalmente ecologica, e scriverete colla. Come scriverete? Con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è Blue Economy, nuovo rapporto al Club di Roma, 10 anni, 100 innovazioni, 100 milioni di posti di lavoro, di Günther Pauli, edito dall'Edizione Ambiente. L'abbiamo messo in premio anche la scorsa settimana, ma è molto bello. Lo rimettiamo anche questa settimana perché di questo libro fra poco vi parleremo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Secondo te, qual è la tua impressione? Sulla fusione? Cosa vuoi che ti dica? Se fosse vero, come avete già detto, sarebbe veramente una rivoluzione tecnologica. Ci vuole un'impressione femminile. Abbiamo tutti questi fusionisti freddi, sono uomini. Non abbiamo una fusionista fredda. E io non sono una fusionista, posso dare il mio parere. Spero che veramente sia vero, sia stato realizzato, e soprattutto che sia italiano. Io sono orgogliosissima. Questo sarebbe bellissimo, sì. Uno scatolotto, tu hai l'energia ovunque, no? Un condominio con una roba che... Ognuno il proprio. Senza dover dipendere più da nulla, dal petrolio, dalle energie comprate dalle aziende. Metti il tuo scatolotto in cantina, dove però ci dovrebbe essere invece il vino, ma quello resta. È un must italiano. Ecco, forse il fatto che sia rimasta un po' in sordina questa settimana è perché erano tutti al Vinitaly. Oh, ecco qua, allora Chiara Albicocco è qua con me per parlare di vino. Sono stata ieri, insomma. E sei sobria. Sono sobria, insomma, ho smaltito in queste 12 ore. Lei tiene bene l'alcol, sì. chiara. Va bene, allora. Ecco, al Minitaly ovviamente abbiamo trovato di tutto, noi ci occupiamo di scienza e quindi di questa parleremo perché al Salone c'è tanta scienza, tanta tecnologia, l'abbiamo detto anche nei nostri titoli. Io vorrei iniziare così, dando qualche pillola che ricaviamo dal decalogo dell'eno appassionato amico dell'ambiente, che è girata su internet e che appunto ho trovato lì al Salone. Poi però ti parlo anche di cose molto serie, delle tecnologie che stanno dietro alla viticoltura. Prendiamo alcune cose di questo catalogo. Per esempio, una dice accorciare le distanze negli acquisti, ovvero preferire il vino a chilometro zero prodotto da cantine di prossimità nel territorio in cui si risiede. Beh, insomma, se si può fare, ok, certo, in molti posti, ma in Italia però il vino c'è ovunque. Il vino c'è ovunque, sì, in ogni regione. Però lì, a quel punto, ognuno dovrebbe bere quello della sua regione. Vabbè, insomma. Almeno un po'. Questi sono i consigli dell'ecoenologo. Ecco, poi scegliere forse cantine con certificazione ambientale, perché ci sono appunto delle regole ISO 14001 che sono sinonimo di un concreto appunto impegno ecologico da parte delle aziende che producono il vino. Sì, è questo di solito piuttosto importante. In alternativa, preferire comunque cantine che siano ambientalmente amichevoli, environmental friendly, no? Quelle che, non avendo nessuna certificazione, però adottano delle pratiche ecosostenibili. E poi sai, esistono le bottiglie in vetro alleggerito. Sai che le bottiglie di solito sono molto pesanti. Ecco, il suggerimento che si dà è appunto di utilizzare un po' meno vetro, quindi con uno spessore ridotto per diminuire appunto le emissioni di CO2 nella produzione. Questo è molto particolare. Io non so se saranno d'accordo molti esperti, perché appunto lo spessore del vetro è garanzia di qualità. Le etichette, va bene, in carta riciclata. E poi un bel consiglio, mi piace molto, sugli avanzi, sugli sprechi. Cioè, qualora ci dovesse avanzare qualche decilitro di vino nella nostra bottiglia, non buttate la via, ma utilizzatela per delle ricette, per degli stufati, insomma, perché anche se per cuocere la carne, come vino si riesce a utilizzare. A utilizzare assolutamente in cucina. E sai, insomma, un po' girando per il Salone ho scoperto diverse tecnologie. Ma prima di tutto, tu insomma lo sapevi che il vigneto non è un semplice ecosistema, perché è composto da migliaia di individui tutti diversi. Ma qui per te individui sono le piantine, certo, le vite. Ogni piantina di vite è diversa dall'altra. Infatti il vigneto è un microcosmo, possiamo considerarlo così, che raccoglie in sé appunto migliaia di piantine con esigenze ben precise, insomma, ognuna peculiare l'una dall'altra. E allora ho scoperto che esiste questa viticoltura di precisione, cioè è un po' come l'agricoltura di precisione di cui abbiamo parlato spesso a Mebius, che consente appunto una gestione differenziata dei vigneti adiacenti. Questo cosa significa? Che coltivando le singole aree del vigneto con le proprie esigenze si ottimizza il risultato, quindi la qualità del vino è superiore. Lì ho intervistato Alessandro Matese dell'Istituto di Biometeorologia del CNR di Firenze, che è il coordinatore di un progetto molto innovativo. Addirittura vorrebbero utilizzare i droni, cioè questi elicotterini telecomandati, per monitorare le singole aree di un vigneto. Sentiamo. Salve a tutti, appunto il contesto di questo progetto di ricerca è appunto la viticoltura e precisione, che viene appunto in supporto alla gestione del vigneto e al miglioramento della qualità delle uve, appunto fornendo delle informazioni di dettaglio per un approccio gestionale produttivo, si dice sito specifico, che appunto porterà una ottimizzazione di ogni singolo vigneto o appunto delle porzioni di esso. E questo approccio innovativo adesso, oggigiorno, è possibile grazie alla diffusione a costi sempre più accessibili per le aziende di tecniche di monitoraggio e mappatura dei vigneti basati su varie tecnologie di reti di monitoraggio wireless, ossia senza fili, remote sensing aereo e satellitare, questo unitamente allo sviluppo di macchine operatrici basate sulla cosiddetta variable rate technology. Che significa? Cioè, che significa appunto effettuare una gestione differenziata di varie porzioni del vigneto sulla base di informazioni georiferite, cioè relative ad ogni punto nello spazio appunto del vigneto. Ok, quindi voi cercate di monitorare e di non trascurare nessuna delle aree del vigneto. E esatto, a seconda di quello che riscontrate, perché voi registrate diversi parametri, adesso ci dirà quali, capite quali sono le esigenze delle diverse piantine. Ci sarà un punto in cui il terreno magari è più arido, uno in cui è più umido, eccetera, eccetera. Che tipo di parametri studiate? E poi poi veniamo a che tipo di strumenti avete pensato di utilizzare. Esatto, in primo luogo l'Istituto di Biometeorologia ha grossa competenza per quanto riguarda il monitoraggio micrometeorologico dei vigneti. Che significa questo termine? Appunto, applicare delle tecnologie che permettono di monitorare in ogni area del vigneto quelli che sono i parametri meteorologici, che possono essere temperatura, umidità del suolo. Insomma, questi sono quelli fondamentali. In secondo luogo invece ci sono altre tipologie di tecnologia di monitoraggio che si basano sul telerilevamento, cioè sul telerilevamento producendo delle immagini che danno un'informazione punto per punto di ogni zona del vigneto, che praticamente possono essere utilizzate per non solo dare una informazione relativa a quella tipologia di parametro misurato, ma poi possono essere incrociate con delle informazioni sullo stato ecofisiologico delle piante. Quindi fotografie, mappature dall'alto. Ed è qui che arriviamo alla parte innovativa del vostro progetto, cioè l'idea di sviluppare, di utilizzare dei droni. Adesso ci spieghi pure di che cosa si tratta. Esatto, questa appunto innovazione per quanto riguarda queste tipologie di ricerche scientifiche, appunto, sono l'utilizzo di questi droni, cioè sono dei piccoli oggetti volanti radiocomandati. Degli elicotterini, vogliamo dire così. Esatto, dotato anche di volo autonomo, che praticamente possono solo oggi essere dotati di quegli equipaggiamenti, di quelle strumentazioni che possono essere utilizzate per queste ricerche. Cioè, fino ad oggi le fotocamere o gli altri strumenti erano talmente ingombranti, avevano un peso e potevano essere solo equipaggiati solo aerei o satelliti. Invece ad oggi la tecnologia è andata avanti in termini appunto di sia per quanto riguarda l'ingombro e il peso, ma anche con una riduzione dei costi che sono più accessibili, e quindi noi abbiamo pensato di equipaggiare questi droni con queste fotocamere. Sono fotocamere particolari, sì. Sono fotocamere multispettrali ad alta risoluzione per l'acquisizione di immagini a diverse lunghezze d'onda, dello spettro del visibile e dell'infrarosso. E che informazioni vi danno queste telecamere speciali multispettrali? Che cosa vedete voi una volta che ottenete l'immagine? Queste immagini praticamente al suo interno hanno delle informazioni che possono essere correlate allo stato ecofisiologico della pianta. Cioè, a seconda della combinazione delle informazioni in queste bande dello spettro visibile infrarosso, noi possiamo dire con certezza se quella porzione di vigna corrispondente a un determinato numero di piante è in salute o meno. È in salute o meno, esatto. Ho capito. Cioè, voi ottenete delle immagini magari con diverse colorazioni a seconda dell'area, esatto, eccetera eccetera, per cui capite se in quella zona c'è un certo tipo di radiazione, piuttosto che è in ombra, piuttosto che è umida. Cioè, riuscite a ottenere anche indicazioni sui parametri che di solito voi studiate, insomma, a terra. Più specificatamente riusciamo a vedere qual è la risposta della vite al nostro parametro. Quindi se questa fotocamera multispettrale riesce a dare un'informazione di un certo tipo su quelle bande a una certa vite, quella vite potrà essere considerata come uno strato di salute buono oppure meno. Ecco, ma questo tipo di viticoltura per un agricoltore è economica, voglio dire, è conveniente, oppure deve fare ingenti investimenti di capitale per poi ottenere un vino ovviamente di massima qualità? Oppure in questo periodo c'è una buona via di mezzo? Allora, ovviamente queste tecnologie, come ho detto anche prima, possono essere accessibili a costi sempre minori, e ovviamente queste immagini che rappresentano l'ultima frontiera mirano appunto a gestire, cioè a vedere il vigneto non più come una superficie omogenea, ma appunto sito-specifica, mettendo in risalto quali sono le caratteristiche del vigneto che conferiscono alle uve diverse qualità. Quindi noi possiamo, come dire, prevedere se in certe determinate zone del vigneto noi avremo alla raccolta delle uve di diversa qualità. Quindi queste uve di diversa qualità potranno poi essere utilizzate per diverse tipologie di prodotti. Quindi per vini più pregiati o per vini meno pregiati, quindi più costosi o meno costosi. Esatto, esattamente. Quindi in un certo senso questo investimento, diciamo, che fa il viticoltore in realtà è conveniente, perché poi nel risultato, nel prodotto, il vino è al top, è il massimo che si può ottenere. E inoltre queste tecnologie possono servire anche per consentire, cioè il fatto di comprendere la variabilità del vigneto può consentire anche una razionalizzazione sia degli input agronomici e gestionali del vigneto, con appunto la possibilità di selezionare prevedere quali saranno le zone del vigneto che hanno più bisogno di input agronomici come certo. fertilizzazione o d'altro. Va e bene. Questo appunto fa risparmiare l'azienda. Ok, allora Matese, il vostro progetto è appunto in fase di realizzazione, assolutamente ci chiami quando il primo drone sorvolerà i vigneti del Chianti, va bene? Benissimo, la grazie, buon molto. Lavoro. Grazie mille. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ora, essendo noi una specie che fa parte della natura, dovremmo avere un'economia che a questa natura si ispirasse, ma sappiamo che così non è. Non è così banale questo collegamento. Barbara Gallavotti, ciao. Ciao Federico e buonasera a tutti. Sei qui in studio con me per parlare di un libro che invece sostiene che questa direzione, questa possibilità esiste, un'economia basata sulla natura. Di che libro si tratta? Si tratta del libro Blue Economy, l'ha scritto Gunther Pauli e l'edizione italiana è stata curata da Gianfranco Bologna, che è il direttore scientifico del WWF. Cosa possiamo dire allora di questo libro e di questa tesi forte? Beh, intanto diciamo che questa tesi è stata presentata, il libro è stato presentato a una conferenza che è l'Aurelio Peccei Lecture 2011. Aurelio Peccei è stato un imprenditore, uno dei fondatori del Club di Roma, che è un'associazione che vuole riunire persone di alte competenze per discutere e risolvere i problemi del mondo del futuro. Allora, in primo luogo io ho chiesto a Gunther Pauli, ovviamente, che cos'è la Blue Economy. Blue Economy is an economy that generates jobs. Allora, Gunther Pauli dice che la Blue Economy è una forma di economia che si basa sull'innovazione ispirata alla natura, un'economia che genera lavoro e che è più competitiva dell'economia tradizionale. Risponde ai bisogni usando quello che è disponibile in natura ed è diversa dalla green economy, che ha dimostrato di essere qualcosa che ha bisogno di sussidi e di grosse spinte finanziarie per andare avanti. Lo scopo della blue economy è superare in competitività quello che è il sistema attualmente in uso. Non è un qualcosa di ideologico che si ispira al buono o al cattivo. È molto pragmatica, prende atto del fatto che le risorse sono limitate, non possiamo continuare con un modello economico che impone di produrre oggetti standardizzati in quantità sempre maggiori e dobbiamo sviluppare qualcosa di diverso. E quindi, voglio dire, appartiene a quel filone che dice la soluzione è anche proprio consumare meno, insomma. No, quello che lui dice al contrario è proprio la soluzione è creare valore aggiunto. Ecco, infatti, ecco cosa ha detto. Stop only focusing on this obsession with cutting costs. The whole supply chain management idea. Quindi lui dice basta con l'ossessione di tagliare i costi, dobbiamo concentrarci su cosa accade ai prodotti di scarto. Quando creiamo qualcosa, quando produciamo qualcosa, abbiamo un'enorme quantità di prodotti di scarto che poi peraltro devono essere smaltiti costosamente. Se noi ottimizziamo il sistema in maniera tale da riuscire a produrre altro reddito utilizzando i prodotti di scarto oppure a produrre in maniera più efficiente quello che già facciamo, quindi avendo costi più bassi o di nuovo costi di smaltimento degli scarti inferiori, allora abbiamo tratto un guadagno. Beh, l'ipotesi è assolutamente suggestiva, al momento resto ancora con qualche dubbio però insomma è affascinante. C'è qualche esempio che può farci capire come questo processo potrebbe essere innescato? Dunque, lui ne fa diversi di esempi. Il principio è sempre quello di imitare quello che fa la natura e cercare di trarne ispirazione. Allora, prendiamo ad esempio il caffè. Nel caffè, diciamo dal campo alla tazzina, viene scartato il 99,8% del vegetale che ha prodotto il caffè. Buona parte di questo scarto è lignina. Allora lui, forte di alcuni studi, perché tutte le sue ipotesi sono poi valutate scientificamente ed economicamente, si è reso conto che se questa lignina viene usata come substrato per la coltivazione dei funghi, per esempio, allora si riesce a aumentare il guadagno della produzione del caffè al produttore, ovviamente, del 40%. Che è una cifra immane. Che è una cifra assolutamente immane, soprattutto considerando che in realtà poi i produttori di caffè spesso arriva una piccolissima percentuale del guadagno, diciamo, sulla tazzina, certo, perché la filiera è molto lunga. Fa anche un altro esempio che può sembrarci ancora più inquietante, che come quello del caffè ha già trovato applicazione, in particolare ha trovato applicazione in Benin, e riguarda le larve di mosca. Allora, tutti i mattatoi del mondo producono del materiale di scarto, che normalmente viene bruciato d'urgenza per motivi ovvi, motivi igienici. Igienici. Allora, in Benin invece hanno tentato di fare un'altra cosa. Fanno delle vasche di decantazione di questa carne, coperte da delle reti sottilissime per evitare che ci vadano gli uccelli, ma abbastanza spesse da permettere alle mosche di deporre le uova e quindi alla nascita delle larve. Queste larve hanno la capacità di secernere all'interno del loro organismo una molecola che risulta essere la migliore sostanza oggi disponibile per favorire la cicatrizzazione delle ferite. Quindi basta poi prendere queste larve che si sviluppano sulla carne in putrefazione, immergerle in acqua salata, si secerne la proteina di interesse, che ha un enorme interesse farmacologico, per esempio per curare le ferite dei diabetici. E poi, volendo, le larve possono essere anche usate, per esempio, come mangime per pesci. Quindi un incrocio costante di processi produttivi che invece oggi sono tutti separati. È un po' questa la filosofia di fondo. Sì, questo ovviamente ha in sé il seme di un cambiamento profondo, perché non si potrà mai fare una grande impresa, non so, penso alla Fiat, alla Chrysler, una grandissima impresa basata su un sistema di questo tipo. Ci potranno essere delle grandi imprese, ma saranno costituite sostanzialmente da un network di attività parallele, tutte collegate una all'altra, un ecosistema, per richiamare il principio naturale a cui si ispira lui, che naturalmente ha bisogno di una generazione di economisti che pensino in rete, perché non è il modo in cui noi tutti siamo abituati a pensare, peraltro è piuttosto complicato pensare a tutte queste diramazioni, però da questo, secondo lui, ci potranno generare un nuovo modo di fare impresa molto competitivo e molto, molto sostenibile. C'è un problema che io ho chiesto. E di che si tratta, Barbara? Ma la prima cosa che mi è venuta in mente è le generazioni di persone che si sono rovinate cercando di imitare dei meccanismi naturali. L'esempio più semplice: per secoli la gente ha cercato di imitare il volo degli uccelli con risultati catastrofici, finché non si è capito che per volare, invece, se sei un essere umano, la cosa migliore è un apparecchio aereo, che a un uccello tutto sommato assomiglia pochissimo. E qui c'è un punto interessante, perché lui infatti mi ha risposto così. You see, there is a very big and critical factor that we need to embrace first: science. Lui dice che la scienza ha un ruolo fondamentale, perché non basta guardare la natura e ispirarsi. Tutti i progetti che loro sostengono sono appoggiati da almeno 3 studi con peer review, quindi studi valutati scientificamente. L'innovazione, questa sorta di innovazione blu che lui promuove, non può prescindere da una solida ricerca scientifica che ti dica quello che si può fare e quello che non si può fare. Quindi il caso delle ali degli uccelli non si dovrebbe ripetere nella Blue Economy. Barbara, ricordiamo allora il titolo? Il titolo è Blue Economy, di Edizioni Ambiente. Grazie Barbara, ciao. Grazie Federico, buonasera a tutti. La soluzione del nostro quiz, dunque, lo avete sentito, no? Dalle larve delle mosche si può estrarre un potente cicatrizzante. Niente detersivi, niente colle. Vabbè, insomma, passiamo ad altro. È primavera e sbocciano i bandi per le start-up. Che cosa sono? Bene, abbiamo parlato altre volte qui a Mebius. Sono quelle iniziative promosse da università, da politecnici, anche da centri di ricerca per lanciare nuove idee che diventino però aziende, cioè delle cose che dalla ricerca possano arrivare al mercato. E in queste settimane vengono un po' promossi tutti i bandi per appunto partecipare a questo confronto fra idee diverse. Camillo Gianinazzi è qui con me questa sera. Buonasera Gianinazzi. Buonasera. Di iPad Lab, è giusto? Esatto. Startup, cioè startup è quella per partecipare ai bandi. Voi invece siete una startup, siete partiti da quanto? Da poco? Siamo partiti esattamente da marzo 2010. Allora, guardi, io voglio sapere da lei, perché so che voi avete fatto un'esperienza di incubatore, cioè siete stati scelti e avete fatto, quanto dura il periodo di presenza in queste strutture appunto di incubazione? Allora, l'incubazione dura generalmente tra i 3 e 4 anni. Mm. Quindi voi siete partiti a marzo 2010 e siete ancora in questa fase all'interno dell'incubatore? Esatto. Noi la nostra fase di incubazione è iniziata a marzo 2010 con la costituzione dell'impresa e con la firma di un contratto di incubazione con Alimenta, il Parco Tecnologico Padano. Su che area lavorate dal punto di vista dell'innovazione tecnologica? Nel campo agronomico, quindi in particolare sul mercato della produzione vegetale e la certificazione del materiale vegetale dal punto di vista sanitario. Le chiedo però, questa esperienza, perché così lo raccontiamo anche ad altri che si sentono magari più fiduciosi di mettersi in pista per questo appunto tipo di esperienza, è positiva? Vi state trovando bene? Cioè effettivamente vi serve per riuscire a costruire aziende, per trasformare l'idea in qualcosa che diventa impresa? Direi assolutamente sì. Lo startup è per noi una possibilità prima di tutto di capire come andare a costituire un'azienda. Tante volte sono dei ricercatori o dei giovani che vogliono diventare imprenditori, quindi c'è tutto un iter con lo startup nel quale si vanno a fare diversi incontri e formazione che permette quindi di avere anche le idee più chiare. Dopodiché si passa proprio al premio. Quindi c'è una fase di preparazione, di presentazione dell'idea imprenditoriale e che viene poi premiata da una giuria, quindi questo può portare anche dal punto di vista proprio di immagine dell'idea già una certa conoscenza sul mercato, una gratificazione, quindi poi una facilità a pubblicizzare l'azienda. Diciamo che oggi secondo me queste iniziative sono sempre più importanti, soprattutto per permettere a persone che non sono del tutto nel campo dell'imprenditoria di capire cosa voglia dire. Sì, perché questo passaggio è tremendamente complesso. Siamo poi in una situazione in cui i fondi per la ricerca sono un'araba fenice e quindi effettivamente molti giovani ricercatori e ricercatrici dicono va bene, vediamo di buttarci nell'innovazione, però il passaggio dalle idee a mettere in piedi, creare un prodotto è tutt'altro che semplice, e quindi lei mi conferma che insomma in questi incubatori si apprende questa transazione. Sì, secondo me per qualcuno appunto, visto il contesto economico e il bisogno di innovazione del mercato, tanti ricercatori stanno sempre di più avendo l'idea di buttarsi nell'imprenditoria. Il problema è che tante volte uno ha una buona idea, ma poi bisogna saperla strutturare, valorizzare per poterla poi proporre al mercato. Un teorico dell'innovazione molto inglese mi disse una volta: uno può inventare anche il teletrasporto, ma non è affatto detto che possa avere successo sul mercato. Esattamente, sono totalmente d'accordo. Infatti, questa iniziativa di Startup permette a qualcuno di iniziare a capire quanto la sua idea possa valere. Dopodiché c'è tutto un iter attraverso gli incubatori e altre strutture che permettono proprio poi di valorizzarla. Però diciamo che poter andare a confrontarsi con altre idee, capire quali sono i punti deboli, i punti positivi, poi arrivare anche a un premio che permetta quindi di far conoscere l'azienda, perché poi vengono pubblicati sui giornali, sulle testate, diversi articoli, e poi di avere un, diciamo, un po' di denaro per anche metterli proprio nell'idea e avviare l'attività, che anche questo non è una per l'innesco, cosa. Per partire, certo. Esatto. Camillo Gianinazzi, grazie e tanti auguri per tutto quello che state facendo. Prego, grazie, arrivederci. Si chiude qui la nostra puntata di Möbius. Molto abbiamo parlato di fusione fredda, la seguiremo con attenzione, ha fatto grandi vittime e quindi massima sarà la nostra cautela. Che la settimana vi sia gradevole, ci sentiamo fra 7 giorni.